Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. Il programma prevede che si parli di integralismo, di autoreferenzialità telefonica, di verità ferroviarie, e se proprio il tempo non se la tiranno, di doveri e piaceri.